Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Umberto Ambrosoli, io con lei vorrei cominciare chiedendole una sua opinione. Come considera il clima politico e sociale italiano in questo momento, alla luce anche di quanto successo nelle ultime settimane? È un clima certamente pesantissimo, caratterizzato da una conflittualità antitetica al confronto, da una aggressività proveniente da esponenti dei diversi schieramenti che non fa bene, arriva addirittura ad attaccare da entrambi gli schieramenti, da singoli esponenti di entrambi gli schieramenti, le istituzioni più alte dello Stato, con questo altro non facendo che negare l'autorità stessa dello Stato. Figlio di Giorgio Ambrosoli, ucciso per il suo lavoro come commissario liquidatore della banca di Sindona, avvocato e anche milanese, un elemento non secondario in questo momento, perché ora è su Milano soprattutto che c'è un'attenzione molto molto forte. Ci sono stati i fischi in Piazza Fontana nel 40° anniversario della strage, c'è stata l'aggressione al premier e non da ultimo un ordigno anche abbastanza forte, che fortunatamente è esploso in piccola parte all'Università Bocconi. Si parla di un pulviscolo poco definito, di un'atmosfera un po' poco serena qui. Non so se è una caratteristica solo di Milano, certo è che fra tutti questi episodi quello che trovo dal punto di vista sociale, come fenomeno di massa intendo, più allarmante è quello relativo a Piazza Fontana. L'aggressione al Presidente del Consiglio è un fatto di una gravità straordinaria, ma mi sembra di cogliere che sia un gesto posto in essere da un soggetto isolato e con delle caratteristiche personologiche tutt'altro che comuni. Quanto all'ordigno della Bocconi, mi stupisce da certi punti di vista, ma in realtà neanche più di un tanto, che oggi si dia un peso di questo genere a un fatto che negli ultimi anni, dalla stessa sigla, negli ultimi 5 anni, dalla stessa sigla è stato posto in essere 19 volte. Solo adesso gli si dà un clamore che, sia chiaro, avrebbe meritato tutte le altre 18 volte. Il pulviscolo indica certamente che a Milano, e non solo a Milano, si sta alzando la tensione, si sta alzando tantissimo. Si tratta di capire quali sono le ragioni di questa tensione, ma soprattutto di capire qual è l'humus nel quale essa va ad agire. Lei giustamente notava come in questo momento l'attentato che c'è stato alla Bocconi sia stato considerato e valutato in modo sicuramente diverso e con una maggiore preoccupazione rispetto alle altre azioni della Federazione Anarchica Informale degli altri anni, segno proprio di questo clima cambiato velocemente nelle ultime 2 settimane, grosso modo, un clima che ha fatto riaprire un dibattito e un interrogativo inquietante sui paralleli e le similitudini con la contrapposizione sfociata poi nella violenza degli anni di piombo. Lei, che quegli anni li ha soprattutto studiati, ma innanzitutto la cui violenza lei e tutta la sua famiglia ha direttamente subito con l'assassinio di suo padre, rispetto a questo dibattito come la vede? L'assassinio di mio padre è intervenuto in quegli anni, è intervenuto nell'ambito di dinamiche completamente diverse rispetto a quelle del terrorismo, certo, che hanno fatto semplicemente da cornice storica. Io infatti, come lei ha detto, ho approfondito quegli anni nel cercare di rappresentare nel libro che ho appena scritto la cornice nella quale si è inserita la storia di mio padre, che è l'oggetto del mio racconto. Sulla base di quegli approfondimenti mi sento di dire che, secondo me, e potrò anche sbagliare, l'humus che animava gli anni 70 e nel quale hanno attecchito quegli gesti di violenza terribile di quegli anni era diverso da quello attuale. Noi possiamo ipotizzare che la violenza attuale possa anche crescere, facciamo questo esercizio, ma cresce in un contesto dove sviluppa un, tra virgolette, consenso come quello che ha raccolto in quegli anni in frange significative del paese. Ecco, su questo secondo quesito io mi sentirei proprio di dire di no. Mi sentirei di dire che ci sono delle differenze tali a livello sociale per cui al limite si può sviluppare una violenza diversa, si può sviluppare una violenza, sia chiaro, altrettanto cruenta, e dobbiamo stare tutti attentissimi a impedire con il nostro comportamento che ciò accada, ma non mi sentirei di dire che chi oggi pone in essere dei gesti di violenza lato senso politico sia espressione delle tensioni degli anni 70. È un po' come dare una maschera, non una legittimazione, ma una maschera alle violenze di oggi che non sono degne di quella maschera. Giustamente lei ricordava che il delitto di suo padre, di Giorgio Ambrosoli, maturava in una vicenda, se possibile, ancora più complessa, in cui la questione degli intrighi della banca di Sindona e di tutti gli appoggi politici e delle commissioni della mafia erano, diciamo, state centrali nel decidere la condanna a morte di suo padre. Ma appunto, nel suo libro Qualunque cosa succeda, lei inserisce appunto la vicenda di suo padre nel clima di quegli anni, un clima che forse aveva reso, se possibile, più semplice, mi passi il termine, da parte di chi ha voluto la morte di suo padre, portarla fino in fondo. Non trova che quella violenza complessiva che c'era in quegli anni ha in qualche modo potuto quantomeno accelerare il delitto di suo padre? Penso che allora ci fosse l'abitudine ad aprire i giornali e vedere che c'era stato un attentato da qualche parte. Le fotografie di cadaveri stesi a terra, nella migliore delle ipotesi con sopra un velo a coprirne l'ultimo momento di dramma, erano all'ordine del giorno. La confusione in relazione alle ragioni di quegli omicidi era regnante e certamente qualcuno può aver pensato: uno in più, uno in meno, finirà nel calderone e nessuno mi aggredirà più di un tanto, e così armarsi con maggiore facilità, nella speranza di una confusione, non nella speranza di qualcos'altro. Dopodiché ci sono contesti criminali dove la violenza è qualcosa di straordinariamente connaturato come strumento per la soluzione dei propri problemi, è ovvio che tanto maggiore è la valutazione della violenza a livello mediatico o sociale, una svalutazione in termini di eccezionalità, tanto più facile può essere per alcuni decidere di farvi ricorso. Approfondiamo alcuni degli spunti che nascono dalle sue parole. Lei ha parlato dell'humus e del contesto sociale in cui, secondo lei, appunto in questo momento non attecchirebbe una spirale di violenza. Si è discusso, e anche polemicamente, in questi giorni sulla nascita di quei gruppi su Facebook a supporto dell'aggressore del Premier. Non c'è troppa facilità nell'esaltare gesti di violenza? Io direi che ci sono momenti in cui la goliardia non può essere, è un lusso che non ci si può permettere. E questo è uno di quei momenti. Ci rendiamo conto che ci sono persone che, vuoi per fanatismo, vuoi per patologie psichiatriche, vuoi per volontà emulative, traducono la demonizzazione dell'avversario, addirittura la demonizzazione delle istituzioni più alte, incluso il Presidente del Consiglio, in una licenza all'aggressione anche fisica. E questo, che sia stimolato o meno da volendo da una componente goliardica di alcuni, è qualcosa che non può che essere stigmatizzato. Io non metto in dubbio che chi fa un gruppo su Facebook mosso anche da goliardia non si renda conto di un gruppo ovviamente teso a esaltare l'autore di un gesto sbagliato, non sia teso a replicare quel gesto o a promuovere la replica di quel gesto. Lo fa per scherzare, lo fa perché pensa che comunque il gruppo sia un qualche cosa di meramente goliardico, come ha detto lei prima, ma in realtà contribuisce a un clima. Il problema non si tratta di chiudere o non chiudere il gruppo su Facebook, il problema, a mio parere, è quello di spiegare a tutti che abbiamo tutti un pochettino di responsabilità, anche attraverso un gesto stupido come una battuta o un gesto semplice come la creazione di un gruppo su un social network, abbiamo tutti un pochettino la responsabilità dell'esasperazione. E allora dobbiamo fare molta attenzione alle parole che utilizziamo, perché ci sono in agguato le persone che sono pronte a utilizzare le nostre parole o i nostri gesti semplici come un centimetro in più della loro miccia. Ci sarei arrivata, perché il ruolo delle parole è centrale in questo momento e si è già discusso anche sull'opportunità o meno anche di alcune parole molto forti. Si è parlato anche di alcuni discorsi incendiari da parte di esponenti politici di entrambi gli schieramenti. Ma prima di affrontare il discorso delle parole, volevo con lei riprendere uno spunto che scriveva in un suo intervento qualche giorno fa sul Corriere della Sera, paragonando la situazione attuale a quella degli anni 70-80, confrontava il diverso clima di giustizia o ingiustizia sociale, soprattutto, che all'epoca dominava gran parte della società. Pur con tutte le differenze, non crede che ad accendere ulteriormente il clima di questo momento possa contribuire la crisi, l'esasperazione e la difficoltà economica di un numero sempre crescente della popolazione? La crisi ha una potenzialità in quei termini, di sicuro. Allo stato attuale, per quella che è la già gravissima situazione, mi sembra che comunque ci siano delle differenze sostanziali tra la privazione dei diritti di molti che c'erano all'inizio degli anni 70 e le gravissime difficoltà di tanti che ci sono adesso. Cioè, adesso il problema è che il lavoro non c'è, allora oltre a questo si aggiungeva che chi lo viveva aveva dei diritti estremamente limitati. Pensiamo che lo Statuto dei lavoratori è stato promulgato nel 1970, ora che è entrato a regime ci è voluto un po', e prima scioperare non era propriamente un qualche cosa che si potesse fare all'acqua di rose. Pensiamo che in quegli anni, ma proprio per fare un esempio che può sembrare stupido, chi aveva una persona di servizio nella propria abitazione aveva una persona che non aveva il diritto al giorno di riposo. Oggi, a parità di situazioni di crisi, cioè di difficoltà a trovare il lavoro, chi il lavoro ce l'ha ha molti diritti in più di quelli che c'erano all'inizio degli anni 70 e che animavano quell'humus. Storielle. Storiacce. I fischi in Piazza Fontana, l'aggressione al Premier, l'ordigno degli anarchici all'Università Bocconi. Nel giro di due settimane, in un clima politico teso, già di forte contrapposizione dialettica, questi tre episodi, sia pur molto diversi e ciascuno con origini differenti, hanno allungato sul dibattito politico l'ombra degli anni 70. C'è il rischio davvero di uno scivolamento nella violenza? In molti lo temono. Di sicuro ora nessuno può permettersi il lusso di non rendersi conto del peso delle proprie parole e dei propri gesti. Di questo anche nella prima parte abbiamo parlato con Umberto Ambrosoli, milanese, figlio di Giorgio, l'eroe borghese ucciso 30 anni fa. Si dice preoccupato, ma elenca anche tutti gli antidoti sviluppati oggi contro la violenza, a cominciare dalle istituzioni. A me rassicura la consapevolezza che grazie all'impegno di tantissime persone e purtroppo anche al sacrificio di tante altre, dagli anni 70 siamo usciti. E siamo usciti nel momento in cui lo Stato ha riacquistato la sua autorità, cioè la collettività ha riconosciuto nuovamente l'autorità dello Stato. Lo ha fatto riconoscendo le istituzioni, riconoscendo la magistratura, riconoscendo il Parlamento. Lei ricorderà che c'erano scritte allora sui muri che dicevano né con lo Stato né con le BR, cioè una parte della cittadinanza individuava lo Stato come un nemico al pari delle BR. Ecco, oggi abbiamo la possibilità di evitare che questo errore nuovamente venga perseguito. Abbiamo la possibilità di fermarci in questo preciso istante e di dire: ma le istituzioni, che in questo momento sono travolte da accuse di ogni genere e tipo, ma sono delle accuse strumentali esclusivamente volte all'affermazione del potere dell'uno o dell'altro. Le istituzioni possiamo ancora difenderle? Possiamo evitare che questa degenerazione dell'autorità dello Stato vada oltre? che sia la Corte Costituzionale, che sia il Presidente del Consiglio, che sia il Presidente della Repubblica, abbiamo la possibilità di riconoscere il potere e il significato di quelle istituzioni. Facciamolo e eviteremo che fanatici, esaltati, soggetti che hanno un concetto di ideologia molto particolare riescano a ricreare un humus che secondo me oggi non c'è, ma che ha contraddistinto gli anni 70 in maniera tale da farli ricordare non con, che ne so, gli anni dello sviluppo, gli anni della crisi, ma gli anni di piombo. Ed era il piombo delle pallottole che uccidevano le persone. E mi sembra che nella storia dell'uomo sia la prima volta che un metallo solitamente indicato per spiegare l'evoluzione delle conoscenze umane venga invece utilizzato per classificare un'epoca in relazione alle morti che quel metallo ha determinato. Eppure proprio le più alte istituzioni sono finite nel tritacarne di una contrapposizione politica dai toni sempre più forti e dai toni sempre più esasperati prima che ci fossero questi episodi ultimi di violenza. Secondo lei anche i toni di questa polemica politica e il fatto che proprio queste istituzioni siano state coinvolte in questo scontro in qualche modo ha portato a questi gesti violenti, dall'aggressione al Premier, ai fischi di Piazza Fontana, all'azione alla Bocconi? Io non so se c'è un nesso diretto, posso immaginare, perlomeno per alcune di queste, che un nesso possa esserci. Vorrei ragionare in termini però di cautela. Se ci si impegnasse tutti nelle chiacchierate fra amici, nei commenti che a livello più intimo ci colgono nel momento in cui leggiamo le affermazioni dell'uno o dell'altro, nei luoghi dove ci confrontiamo, che siano reali o virtuali, con altre persone, ecco, se ci accorgessimo tutti che possiamo abbassare i toni e che possiamo pretendere che i toni siano più bassi, che ci sia la volontà di ascoltare gli altri, che ci sia la volontà di riconoscere le autorità, che ci sia la capacità di vedere nella persona che la pensa in una maniera diversa da me non un qualcuno del quale smontare le tesi, ma un qualcuno di cui far tesoro delle tesi per capire e verificare se quelle nelle quali noi crediamo sono più fondate o meno. Se tutti facessimo così, contribuiremmo tutti nelle discussioni più semplici, ovviamente mi riferisco a quelle di carattere politico e sociale, così come in quelle più complesse che avvengono in sedi anche deputate solo ed esclusivamente a quello, contribuiremmo tutti a fare in modo che la violenza non venga vissuta come un qualche cosa di ineluttabile verso il quale siamo proiettati, ma invece come un qualche cosa dalla quale sfuggiamo per consentire la crescita del paese. Il rispetto delle regole e delle istituzioni era stato uno dei punti centrali dell'azione di suo padre e lei stesso, anche quando abbiamo parlato esclusivamente più nel dettaglio proprio del suo libro sulla vicenda di suo padre, giustamente ricordava come una delle principali eredità che la vicenda umana e professionale di suo padre ha lasciato è proprio quella dell'imperativo per cui ciascuno si attenga al rispetto delle regole, delle leggi, delle istituzioni. Ma quando accendiamo il televisore dal canale della Camera sentiamo i nomi di giornalisti, di testate indicati quasi come responsabili di questo clima. Allora che cosa succede? Il canale della Camera è un canale che è un pochettino l'espressione del canale del paese. E proprio in questo che dico, il canale della Camera deve rendersi conto che quei toni non devono essere, non vogliono essere i toni del paese. E allora torno ai comportamenti di ciascuno. I comportamenti di ciascuno esprimono, danno una licenza, tra virgolette, a chi ci rappresenta, che è anche solo in alcuni casi una licenza di tollero. Io tollero che ci siano questi toni. Io invece cittadino non li tollero. E non li tollero, ma non nel senso che vado a urlare, a gridare, perché sennò finisco col fare la stessa cosa. Non li tollero nel senso che non li uso. Io voglio capire, non voglio avere una posizione a priori. È stata rispolverata recentemente una frase che io non conoscevo, ma che effettivamente da allora trovo frequentemente ripresa da più parti, di Sant'Ambrogio. in una Milano con tantissimi difetti, rivolgendosi dal suo pulpito alla collettività, diceva: voi dite che i tempi sono brutti, voi dite che i tempi sono cupi, vivete bene voi e i tempi cambieranno. L'ha ridetta più o meno uguale Gandhi, molto più di recente. Se andiamo a ricercarla più indietro, la troviamo anche prima di Sant'Ambrogio. Concetti identici che sono l'ABC del vivere comune. Il vivere comune, la società, è per come ciascuno si comporta. La società va nella direzione in cui ciascuno consente che vada. Quindi uno scatto quasi di orgoglio morale da parte della società. In che modo potrebbe far arrivare, secondo lei, questa sua richiesta a chi la rappresenta e che invece, casomai, negli ultimi tempi ha dato un'altra forma di rappresentazione? Secondo lei, concretamente, materialmente, ci potrebbe essere un modo per far arrivare una richiesta di questo tipo che sia a nome di parte della società? Io direi che tutte le persone che abitano la Camera o il Senato sono lì perché tutti noi abbiamo contribuito a mandarli lì, e non è che il nostro rapporto con queste persone si debba interrompere nel momento in cui li abbiamo delegati a rappresentarci. Vedo che in alcuni contesti i destinatari del nostro voto sono poi destinatari anche di messaggi di auguri, di solidarietà in certi momenti. Ecco, se ciascuno di noi, con le forme che ritiene, che non sono necessariamente quelle epistolari, facesse sapere alla persona che la sta rappresentando alla Camera che i toni per noi sono importanti, per noi cittadini, e un abbassamento dei toni è importante, farebbe un bel servizio, ma anche silenziosamente, senza pubblicizzarlo, in una comunicazione diretta che fra il rappresentato e il rappresentante sarebbe bello mantenere sempre viva. Un biglietto d'augurio per il nuovo anno con una richiesta ad un dialogo e ad una condotta politica differente. Sarebbe un bel regalo di Natale per tutto il paese.